Soundcheck, il suono della musica di Gegè Telesforo. Sì, siamo pronti per dare il via all'appuntamento numero 228 del nostro Soundcheck, il suono della musica di Radio 24, la nostra prova del suono direttamente dal Groovemaster Studio. Buonasera a tutti voi da Gegè Telesforo, buonasera anche a Francesco Tromba, che invidio un po' perché ti trovo in ottima salute. Oggi mi devi stare a distanza di sicurezza, Francesco. Perché? Che è successo? Perché sono raffreddato, ho mal di gola e mi sto curando, vedi qua una fornitura di propoli e di prodotti fatti apposta per la voce. Ti prepara allora una tisana al peperoncino, così quella fa bene, ti apri tutto. Ecco, sì. Allora diamo il via alla puntata di oggi anticipandovi che dopo l'informazione delle 20 di Radio 24 avremo in studio due meravigliosi protagonisti della scena musicale italiana che ormai dal 2003 portano in giro per l'Italia e per il mondo un progetto ambizioso. Vi sto parlando di Musica Nuda, quindi la voce e il contrabbasso della bravissima vocalist Petra Maggoni con Ferruccio Spinetti, già contrabbassista degli Avion Travel. Grandissimo successo per loro, diversi album al loro attivo, e questa sera presenteranno da noi Little Wonder, l'ultima fatica discografica di questa strana coppia, li possiamo chiamare così? Sì, un progetto discografico partito quasi per caso, per gioco. Ho letto che si dice che abbiano speso semplicemente 800 euro per fare il primo disco con il quale hanno venduto più di 15.000 copie solo in Italia. Pensa, poi fanno concerti dappertutto, in Francia sono richiestissimi. Sì, vanno forte proprio. E poi mi piace anche come è nata la formazione, perché Petra doveva fare un concerto in un club con un chitarrista che, probabilmente costipato come me oggi, non si presentò alle prove, e quindi invece di annullare il concerto chiamò Ferruccio Spinetti. Quindi la formazione, questo duo, è nato in questo modo. Spesso dalla casualità nascono le cose migliori. Sì, allora oggi che cosa vogliamo fare in questa prima parte, Francesco? Io direi di presentare un po' di artisti dei quali abbiamo parlato nelle ultime settimane e che secondo me meritano un po' più di esposizione. Sì, dai, iniziamo con cosa? Beh, io direi di tornare ad ascoltare la bellissima voce di questo non più giovanissimo vocalist americano, nato e cresciuto a Chicago, anche se con origini indiane, sì. Non nativo americano, no. No, proprio indiano dell'India. Indiano dell'India, allievo di Kurt Elling, e quindi vi stiamo parlando di Sashal Vasandhani. Del dottor Sashal Vasandhani. Ma perché dottor? Perché ha addirittura 3 lauree, non ne ha una sola. Ma dove ha trovato il tempo per fare tutto ciò? È laureato in musica classica, in composizione jazz e anche in economia. In economia? Sì, sì. Quindi, si è creato inizialmente una seconda strada da percorrere. Questi sono gli artisti della nuova generazione, bravi artisti che probabilmente sanno anche come gestire i loro affari. Tant'è vero che dopo i primi dischi con etichette indipendenti o etichette minori, approda una multinazionale. Sì, io se posso fare solo un appunto a Sashal Vasandhani. Sì. Il disco mi è piaciuto parecchio, anche se forse è un disco di passaggio. Come si intitola l'album? Slow Motion Miracles. Però la parte visuale, sono andato a guardarmi un po' di video dei suoi singoli, non mi è piaciuta tantissimo, è un pochettino debole. Potrebbe migliorare sulla Sacha, parte visuale. E qua il comunicatore multimediale della nuova generazione, Francesco Tromba, ti dà questi consigli e li devi prendere per buoni. Sashal Vasandhani al soundcheck con Afternoon Sun. One look from you and the rest of my life has begun. As soft and as kind as the moon. Oh, the moon. On the horizon, I hope you'll come back to me soon. Il suono Carno di Slow Motion Miracles, i miracoli al rallentatore per Sasha Alvasandani, che ha firmato da poco un bel contratto con la Sony Music. Suono scarno che probabilmente serve proprio a mettere in evidenza ancora di più le sue qualità di ottimo vocalist. Sasha Alvasandani lo troverete nei migliori e nei peggiori negozi di dischi, quelli ancora rimasti in vita, ma soprattutto attraverso internet, quindi su iTunes. E negli Stati Uniti da pochissimo ci arrivano queste notizie che riguardano proprio il grandissimo successo della musica in streaming, ma anche della musica acquistata via internet, come dire, con un sorpasso per le vendite, sulle vendite dei CD. Sì, allora, lo streaming ha generato 1,87 miliardi di dollari lo scorso anno contro gli 1,85 miliardi che vengono dalla vendita dei CD fisici o liquidi. Eh sì, probabilmente le nuove generazioni americane di appassionati di musica preferiscono i servizi on demand come Spotify e Rhapsody, ma anche le radio online come Pandora stanno andando molto bene. Però i compositori e alcuni artisti insomma se la sono un po' presa, eh? Eh sì, perché comunque a loro, soprattutto agli artisti che magari sono indipendenti, quelli che non hanno tantissimi ascolti su Spotify o su altri servizi di streaming, ovviamente non hanno quasi nulla di ritorno economico, perché come abbiamo già detto diverse volte, gli introiti vengono divisi principalmente fra gli artisti che hanno maggiori ascolti, quindi gli artisti più indipendenti, più underground, vengono quasi completamente ignorati. Bene, potrete approfondire quindi il discorso leggendo questo bellissimo articolo di Raffaella Natale, Musica, lo streaming batte le vendite di CD, ma negli USA è guerra sul copyright, che troverete in un sito molto interessante chiamato K4Biz. Questo è il soundcheck di Radio 24, dove arriva il nuovo album di Farnell Newton, trombettista inglese. Il brano si intitola Peace Love con Jarrod Lawson. It's been the same since the dawn of the dawn. Some of us had no sense of rhythm, and power is sought to the level of the poem. Soundcheck, il suono della musica. Through my joy and through my pain, I still love. Like the sun that follows rain, I still love. No beginning and no end, I still love. Love so love comes back again. Un bellissimo incontro quello fra Gretchen Parlato e Alan Hampton, da questo album The Lost and Found di Gretchen Parlato di qualche anno fa, per anticiparvi il nuovo album di Alan Hampton che si intitola Origami for the Fire. Un meraviglioso musicista, contrabbassista, attivissimo in questo momento lì a New York, molto richiesto dagli artisti contemporanei di jazz e di R&B, eccellente autore, e sinceramente io lo considero uno dei protagonisti dell'attuale scena musicale statunitense. Sì, anche una discreta voce, infatti leggevo un'intervista in cui lui raccontava appunto il passaggio da quando gli artisti lo chiamavano semplicemente per suonare a quando hanno scoperto anche le sue doti vocali, a partire dai cori di sottofondo e poi via via a collaborare direttamente con questi artisti come Gretchen Parlato o Robert Glasper, di cui era sì, anche ha suonato di con tutti, Kendrick Scott, con Esperanza Spalding, e in questo momento sta lavorando per un progetto insieme a Michelle and the Geosello. Sono soprattutto Michelle gli sta insegnando a scrivere, come leggevo sempre in questa intervista. Lui sta imparando molto da lei, soprattutto sulla parte lirica, cioè sui testi. Questo album di cui stiamo parlando, che si chiama Origami for the Fire, principalmente ha importato l'elemento principale, il folk, che unisce tutti gli elementi di Alan Hampton, che lui comunque ha diverse esperienze, è partito magari con delle cose più jazz, poi è passato all'R&B, musica classica, fa un po' tutto, diciamo, e non riesce a rinunciare a nulla di questa, cioè alla sua varietà di musica. Sì, ma i suoi album sono, sì, col suono vagamente folk, bluegrass, ma molto complessi da un punto di vista armonico nella struttura, e anche i testi sono bellissimi. Sì, molto eleganti tutto. Alan Hampton al soundcheck con Want da Origami for the Fire. In the front of your consciousness, you know you want, but you dare not think of it. Yeah. Oh, no, you dare not think of it. È la grande classe di Alan Hampton, protagonista del soundcheck di Radio 24, è uno degli artisti che più apprezzo in questo momento, background musicale molto vario, musica classica, jazz, e poi scrive delle composizioni originali e suona tutto lui, caro Francesco. Sì, è un multistrumentista, suona la chitarra, il contrabbasso, è un eccellente contrabbassista, sì, Alan anche Hampton. Le tastiere. Allora io direi di ascoltare un altro brano con protagonista Alan Hampton, però da un album del bassista Derrick Hodge. Pensa te, un eccellente contrabbassista di jazz come Derrick Hodge, già bassista degli Experiment di Robert Glasper, che coinvolge un suo collega in una sua composizione intitolata Holding On To You, un'altra ballad bellissima, qui al soundcheck con la voce di Alan Hampton. Soundcheck. Yes. Il suono della musica. Francesco, ci vuole del coraggio, è passare dal sound morbido di Derrick Hodge con Alan Hampton a quello potentissimo di King Kunta, uno dei brani più interessanti proposti dal rapper Kendrick Lamar in questo nuovo album intitolato To Pimp a Butterfly. Sì, è l'equivalente di un dritto al naso praticamente. Certo. Solo questo brano pensa che ha quattro citazioni di quattro artisti diversi, da Michael Jackson a James Brown, a Johnny Barnes e anche a Mad Lewis. Avete riconosciuto We Want the Funk, la citazione. E qui proprio nel rap, nell'esposizione proprio vocale del testo, Kendrick Lamar ricorda molto James Brown. Questo album è veramente una cosa, cioè ogni volta che lo riascoltate scoprirete qualcosa di nuovo in una strofa, in una sezione. Sì, una grandissima produzione per Kendrick Lamar, con tantissime collaborazioni illustri, poi ha utilizzato i migliori studi di registrazione, insomma una produzione di quelle da $1 milione, forse anche sì, qualcosa probabile. Di più. Allora, da Kendrick Lamar, in attesa dei nostri ospiti che stanno per fare il loro ingresso nel Groove Master Studio, ovvero Petra Magoni e Ferruccio Spinetti, Musica Nuda per presentare presentare il nuovo album Little Wonder, direi di approdare quindi alle informazioni di Radio 24 dopo aver ascoltato Workhouse con il sound di Nubian Twist, altra strepitosa vocalist rapper inglese della nuova generazione. Ci risentiamo fra pochissimo con Musica Nuda, sempre qui su Radio 24. So kick me out, lick the style, put fever in the seas to this notion of green, leaves the room for further doubt. Winning by landslide, don't need to abbreviate the score. Only generalize the faces falling through the door. Haven't worked in weeks in which I haven't got a clue. Brush me off your seat because your lunch is coming through. So say that, explain all your do's and your don'ts. Waste a sparking entrance, know the sucker's got your throat to the tonic notes. Soundcheck, il suono della musica. Di nuovo collegati con il Groove Master Studio per la seconda parte del Soundcheck di Radio 24, felicissimo di presentarvi Petra Magoni e Ferruccio Spinetti, ovvero Musica Nuda, però in questo momento sono vestiti molto bene, anzi abbastanza coperti, e dovrebbero indossare la mascherina anche loro se non vogliono essere contagiati dai miei bacilli. Sono contentissimo di vedervi, ben arrivati. Grazie, siamo contentissimi anche noi. Allora, io voglio subito chiedervi delle cose. Intanto ho letto la storia di Musica Nuda, che te dovevi fare un concerto in un club con un chitarrista e questo signore non si è presentato. Beh, un po' che... come la storia dei Beatles con Ringo Starr, più o meno, no? Questo... Visto quello che poi avete combinato, esatto. In quanti anni? 12 anni? 12 anni, sono 12 anni che suoniamo insieme. Quella sera noi ci eravamo già incontrati pochi giorni prima in una specie di jam session, avevamo fatto Roxanne in duo. E poi dovevo fare questa serata con questo ragazzo che si è ammalato, ho chiamato Ferruccio, lui è arrivato. Insomma, sta di fatto che non ho mai più suonato con quel chitarrista. Certo, l'hai eliminato dall'agenda. Ho trovato di meglio, dai. Oh, bene. Beh, avete fatto non so quanti concerti in questo lungo periodo, diversi album con una formula vincente anche da un punto di vista logistico, visto che faccio il musicista e guido delle band, insomma non numerose ma sempre un quintetto, un sestetto, ma in due mi sa che le cose si semplificano. Assolutamente, siamo a chilometri zero, nel senso che che consumiamo poco, ci muoviamo con una macchina, al limite con il nostro fonico che ci segue sempre, che è Alessio Lotti, e quindi a parte scherzi, abbiamo indovinato questa formula magica. Però appunto, come diceva Petra, è nato tutto assolutamente per gioco. Nessuno di noi due avrebbe scommesso un euro, c'era già l'euro sì nel 2003, su questo duo, perché anch'io da contrabbassista non avrei mai pensato che contrabbasso e voce avrebbe dato vita a Musica Nuda, più di 1000 concerti, questo è il nono disco. Avete ispirato anche altre formazioni, perché poi dopo di voi in giro per il mondo sono nati altri organici, voce e contrabbasso. E questo ci fa molto piacere, perché questa cosa ce l'avevamo chiara fin dall'inizio, che Musica Nuda non era semplicemente noi, ma era un'idea di musica che poteva essere raccolta da altre persone. Fra l'altro, in realtà io quest'idea non mi è venuta in testa solo quando ho incontrato Ferruccio, però è vero che avevo conosciuto Sheila Jordan e quindi ovviamente tutto il suo lavoro, e fra l'altro Sheila è venuta al nostro ultimo concerto a New York e è stato bellissimo quello che mi ha detto alla fine, perché mi ha detto delle cose bellissime, tipo: se io avessi avuto la tua voce avrei parlato con tutti, e che è una cosa molto bella. Bellissimo, un grande complimento da Sheila Jordan, esatto. Che poi è rinomata in tutto il mondo come insegnante di canto e di musica, grande esperta. Sì, sì, ma poi ecco, è stato bello anche, penso, per lei vedere che la sua idea di musica appunto veniva raccolta, ma ovviamente non scopiazzata, cioè fatta a modo nostro, quindi è stato un bellissimo momento. Ecco, la cosa che mi ha molto colpito di questa nuova pubblicazione, che si intitola Little Wonder e che consiglio agli appassionati di musica di andarsi a procacciare, è anche con facilità, perché siete avete firmato con la Warner, quindi una multinazionale, lo troverete il disco nei migliori e nei peggiori negozi di musica ma anche scaricabile da iTunes. La cosa che mi ha molto colpito è la varietà del repertorio che avete scelto, che poi è anche un po' la prerogativa di questa, esatto, della vostra band, no? È anche la nostra forza, perché sin dal primo concerto si spaziava da Non ho l'età di Giulio Cinquetti a Can't Together dei Beatles, a Battisti e perché no anche a Monteverdi, quindi ancora una volta, sulla carta, se uno legge i titoli, dice questi sono completamente pazzi. Beh, ma lo siete. E quello assolutamente è vero. Allora, hai detto nomi di artisti che appartengono al mondo del classico, pop, jazz e via dicendo. Allora, ascoltiamo invece la vostra versione di Is This Love, Bob Marley, per Musica Nuda, al soundcheck di Radio 24. We'll be together, we'll be together. With a roof right over. We'll share the shelter of my single bed. We'll share the same room. Your provider bread. Is this love? Is this love? Is this love that I'm feeling? Sound check. Il suono della musica. I don't wanna wait in vain for your love. I don't wanna wait in vain. I don't wanna wait in vain for your love. I don't wanna wait in vain. Oh. Eh sì, per restare a Bob Marley, Diane Reeves con Lala Hathaway in Waiting in Vain, con nostri ospiti quest'oggi Musica Nuda, ovvero Petra Magoni e Ferruggio Spinetti, per presentarvi Little Wonder, questo è il nuovo album per la Warner Bros. Allora, Tromba, vogliamo dare un po' di dati per capire in 12 anni di attività cosa hanno combinato questi due signori? Sì, allora, discograficamente Musica Nuda nasce nel 2004 con il loro primo album dal titolo appunto Musica Nuda, che ho letto è stato registrato con soli 800 euro, non so se è vero. In un pomeriggio. E ha venduto più di 15.000 copie solo in Italia. No, alla fine sono più di 100.000, fra se ci metti tutto il resto. Ah, ok. Ma la cosa bella è che... Che fai? Il commercialista? Che te ne interessa? No, questo disco non ha avuto masterizzazione, perché noi a quell'epoca non avevamo soldi, abbiamo detto ma che lo masterizziamo a fare? A cosa serve? E devo dire che viene usato spesso da chi fa questi super impianti hi-fi per testarli, pensa te. E un'altra notizia interessante è quella appunto che ci raccontava prima Ferruccio, che il suo disco Inventario incontra Evan Lins, ha quasi vinto i Latin Grammy Awards. Sì, è stato candidato fra i 5 dischi, e la cosa più incredibile per la categoria MPB, che sarebbe musica popolare brasiliana. Poi ha vinto la grande Marisa Monte, ma per noi è stato già un grande traguardo essere lì. È un grande risultato, ma anche per voi. Io seguo la vostra attività da tempo, vedo che fate concerti in continuazione. Quante date avete fatto in 10 anni? Più di 1.000 in 12 anni. E avete un bel po' di impegni proprio anche prossimamente, perché dopodomani partite per Lima. Sì, andiamo a Lima per la prima volta, ci aspettano due concerti che lì. Ci portate come souvenir da Lima? Ma che ne so, vedremo cosa c'è. Siamo stati in Ecuador, quindi diciamo la zona andina un po' la conosciamo. Penso che siano abbastanza simili per certi. E che cos'è, un festival? Facciamo un concerto in un festival jazz e poi un altro in un teatro. E poi rientrate e avete la prima data in Italia a Torino il 6 di maggio, giusto? Sì, c'è un intervallo giustamente di qualche settimana per riprendersi con jet lag, varie questioni. Dopo Torino, Bologna il 7 di maggio al Teatro Duse, e il 13 di maggio poi si sposteranno in Francia a Rockle al Festival Jazz, il 21 negli Stati Uniti a Charleston. Allora, andate negli Stati Uniti, sì, quindi no. Girate, andate, come dire, come delle trottole in giro per il globo terracchio. Cambia il repertorio da un paese all'altro o fate le stesse cose? Tipo, per esempio, Far niente di Chico Buarque, la canterete anche negli Stati Uniti? Ma se capita, perché no? Non abbiamo delle scalette in base alle nazioni dove andiamo. Anzi, il valore aggiunto sicuramente è che quando andiamo all'estero ci chiedono molto di suonare il repertorio italiano in generale. Sono curiosi di sentire la nostra lingua e, perché no, anche il repertorio storico, che vuol dire per noi anche Di Andremo, Dugno, Battisti. Quindi voce e contrabbasso per Petra Magoni e Ferruccio Spinetti, che in Little Wonder incontrano un altro incredibile talento italiano, un nostro amico, il formidabile Nicola Stilo. con Nicola, vabbè, ci conosciamo da tanti anni, avevamo già collaborato, e questa canzone in realtà è una canzone che avevamo nel cassetto, perché è una registrazione di 10 anni fa che è rimasta lì, come succede a volte, le cose devono maturare, e ha trovato secondo noi la giusta collocazione in questo disco. E anche la giusta dimensione con la partecipazione di Nicola Stilo con il flauto e la chitarra, che musicista. Pazzesco. Aria di festa intorno a me, aria di gioia intorno a me, che voglia di far niente. Ogni domenica è così, e la domenica si sa, vuol dire non far niente. 6 giorni 6 di lavoro, e ci do dentro, lo giuro, perché mi devo sposare. Finalmente è finita, io preferisco la vita che questo giorno mi dà. Can you hear me? Soundcheck, il suono della musica. Bring new sunshine when he's gone. Only darkness every day. Bring new sunshine when he's gone. This house just ain't no home. Anytime he goes away, anytime he goes away, anytime he goes away, anytime he goes away. E fra gli artisti compositori che vengono celebrati in Little Wonder per Musica Nuda c'è anche Bill Withers con questa versione di Ain't No Sunshine. Siete in contatto con il soundcheck di Radio 24, Ferruccio Spinetti, Petra Magoni, i nostri ospiti, e naturalmente Francesco Tromba. Avete suonato dappertutto, che posti vi mancano? C'è una regione italiana che ci manca, e che è la Calabria. Beh, Tromba, mi devi dare una spiegazione scientifica. Beh, in realtà forse siete anche stati fortunati a non suonare in Calabria, perché probabilmente non vi avrebbero pagato per farlo. No, non è vero, ma che dici? Ho suonato tantissime volte giù e è sempre andata bene. Anzi, sono gli insospettabili quelli che poi tirano i pacchi, come si dicono. Sono stata recentemente in Calabria, ma non con Ferruccio, ho un progetto con Pippo Del Bono, attore, regista, eccetera, eravamo a Rende. Allora, siete approdati a una multinazionale, no? Come avete lavorato? Che tipo di rapporto avete avuto? Ma guarda, abbiamo una grande fortuna che sin dal primo disco noi siamo i produttori di noi stessi, quindi in altri termini, per chi è nell'ambiente lo sa, noi ci autopaghiamo tutte le spese, il master è nostro, e lo diamo semplicemente in licenza a Warner. In distribuzione. Esatto, in distribuzione. Questo in cosa si traduce? In una grande libertà che va sia dal repertorio, dalle scelte artistiche. E poi comunque, devo essere onesto, in questi 10 anni, anche quando abbiamo fatto dischi con la Blue Note, con la EMI Italia o la EMI francese, ci hanno dato sempre grandi margini di libertà nelle scelte che facevamo. Anzi, a volte sfatiamo anche questo mito che i discografici sono i cattivi. A volte trovi anche delle persone, perché come in tutti i lavori, alla fine la differenza chi la fa, la qualità e la professione di chi ci lavora dentro. Quando mettete su un nuovo progetto discografico, come lavorate, Petra? Cioè, fate delle prove, utilizzate il computer per gli arrangiamenti, come funziona? Ma non c'è un unico modo, anche perché i nostri dischi sono molto diversi l'uno dall'altro. Questo in particolare vuole assomigliare molto al nostro primo disco, quindi l'abbiamo registrato su un palco di un teatro, senza cuffie, con pochissime sovraincisioni, senza ospiti, a parte il brano con Nicola Stilo che abbiamo sentito prima. Dal punto di vista degli arrangiamenti non ci mettiamo lì a pensarli, semplicemente cominciamo a suonare un pezzo, poi le idee arrivano un po' alla volta, metti un coretto qui, metti un arco là, però non è un progetto molto istintivo il nostro, alla fine suoniamo delle canzoni, quindi il disco precedente ovviamente, Banda Larga, era con orchestra sinfonica, quindi lì era stato un lavoro molto più difficoltoso. Allora, suonando in vari posti del mondo, no? Avendo comunque un approccio comunque essenziale, essendo solo contrabbasso e voce, come cambia il vostro approccio a seconda dell'audience o del posto in cui suonate? Ma è interessante dire che a volte noi facciamo la scaletta anche in base al teatro, al club, alla piazza, come suona il posto. Cioè, pensiamo, e tu lo sai benissimo che fai il nostro stesso lavoro, ci sono delle alchimie strane, delle canzoni funzionano meglio in determinati posti, e questa cosa la scopriamo al soundcheck intorno alle 18:32, non prima. Quindi un altro motivo per cui cambiamo sempre scaletta è per vincere il pericolo della noia, perché suonando tanto dal vivo ci piace cambiare sempre. Beh, e poi avete un repertorio infinito oramai. Esatto. Sì, sì, poi ci sono anche dei momenti in cui il giorno stesso scegliamo una canzone perché magari l'abbiamo sentita alla radio. Infatti le radio sono molto importanti, non è che sono la prima a dirlo, anche infatti, per ispirare allora, e insegnare. Siccome mi avete stimolato con Ain't No Sunshine di Bill Withers, vorrei ascoltare questa versione dal vivo di Bill Withers di Use Me in un concerto importantissimo, primi anni 70, la prima volta di Bill Withers alla Carnegie Hall. Soundcheck, il suono della musica. Questa è una vera sorpresa, trovare in Little Wonder musica nuda, Petra Magoni e Ferruccio Spinetti con Stessa spiaggia, stesso mare, in versione francese. Perché? Perché innanzitutto esisteva già questa versione in francese, la cantava Mina negli anni 60. Ecco, intanto vorrei precisare che il testo originale era stato scritto da Mogol. Sì. E invece questo in francese, ora non mi ricordo esattamente il nome dell'autore. Ma non si trova neanche su internet questo testo. Ho dovuto chiamare un amico francese e farmelo scrivere proprio per poterla poi registrare. Ma spesso abbiamo fatto, siccome la Francia è un po' la nostra seconda patria, abbiamo spesso interpretato grandi successi francesi in italiano, come Ne me quitte pas, quindi Non andare via, o La canzone dei vecchi amanti. E in questo caso volevamo fare un'operazione inversa, anche perché Stessa spiaggia, stesso mare è una canzone famosissima in Italia, non così famosa in Francia, e quindi ci stava dentro questo disco, che mentre i due precedenti erano quasi tutti inediti e in italiano, qui appunto volevamo essere un po' più internazionali. Quindi siete pronti per affrontare tanti concerti, pronti per partire per Lima al Festival Jazz, poi rientrate, tanti concerti in Italia, ma andrete negli Stati Uniti, a Parigi, a Londra. Insomma, io sono molto contento per voi e grazie, insomma, per quello che fate, perché portate, come tanti altri colleghi, il nome del nostro paese in giro per il mondo. Beh, per noi è un onore. Abbiamo tantissime date, il calendario è continuamente aggiornato, per chi fosse interessato c'è un sito musicanuda.com dove ci sono tutte le informazioni. Allora, Little Wonder è il titolo del nuovo album per Musica Nuda, e noi abbiamo ancora una manciata di secondi per salutarvi, no? Poi Tromba, noi torniamo domani. Sì, torniamo domani alle 15:30. Hai già pensato cosa suonare? Ancora no, vedete. Bene, lo faremo insieme. Grazie Petra, grazie Ferruccio, in bocca al lupo per tutto, salutatemi e le vostre famiglie, e quando volete siamo qui. Grazie mille, ciao. Arrivederci a tutti, ci sentiamo domani sempre qui su Radio 24.